Linee d'ombra di Matteo Caccia. È una persona speciale, quella con cui si entra in immediata empatia. Federica è una persona per bene, così siamo diventati inseparabili. Ogni volta lei aveva qualche bambino da sistemare sul carrello. Mi salutava sempre ed io conoscevo il nome dei suoi 4 figli e anche del bambino che aveva in affido. Storie di amicizie da supermercato e di 2 adolescenti che si scoprono in una puntata che si intitola Così vicini, così lontani. Voi che noi amiamo, voi non ci vedete, non ci sentite, ci credete molto lontani, eppure siamo così vicini. Siamo messaggeri che portano la vicinanza a chi è lontano. Siamo messaggeri che portano la luce a chi è nell'oscurità. Siamo messaggeri che portano la parola a coloro che chiedono. Non siamo luce, non siamo messaggio, siamo i messaggeri. Noi non siamo niente. Voi siete il nostro tutto. La voce che sentite è quella del protagonista del film di Wim Wenders, Così lontano, così vicino, che è un film del 1993 che racconta in qualche modo la Germania dopo la riunificazione, e il protagonista è questo angelo che si chiama Cassiel, che è appunto quello che sentite parlare, che recita questa sorta di versi mentre vola nel cielo di Berlino. È un film appunto che ha vinto il Festival di Cannes, ha vinto Cannes appunto nel 1993. L'abbiamo scelto per aprire questa puntata perché la puntata si intitola Così lontani, così vicini, e questo è davvero uno dei temi di questo periodo, il fatto che la mancanza e la lontananza siano diventate parte della nostra giornata. E non parlo solo del famoso distanziamento sociale, quello per cui bisogna tenere un metro e mezzo, a parte che poi si fa fatica a capire se è un metro e mezzo, 3 metri, perché poi lo sputo, la tosse arriva fino a 1,08 metri, ma dipende dalla velocità, tant'è. Insomma, si parla di distanziamento sociale, quindi stare lontano dagli altri, non avvicinarsi, non darsi la mano, non abbracciarsi. Ricordo un mese fa quando uscì il decreto che diceva letteralmente evitate di darvi la mano e abbracciarvi, fu uno shock per tutti quanti, ma riguarda proprio anche soprattutto quando si parla delle persone care, per cui pensate a quanti di noi hanno i genitori che magari sono anziani e non vanno a trovarli e stanno lontani da loro proprio per evitare di poter far loro del male, o peggio ancora le persone che sono in ospedale e sono di fatto da sole perché nessuno può entrare negli ospedali a meno che non abbia bisogno di andarci. E questo è un tema che però riguarda tantissimo, che riguarda anche solo il nostro modo di vedere il mondo, no? E come sta cambiando, non lo so se rimarrà così o se cambierà, ma in questo momento è chiaramente così. L'altra sera, lunedì scorso, abbiamo fatto la serata che di solito faccio in un locale di Milano, in cui invito le persone a raccontare delle storie, che si chiama Don't Tell My Mom. Ovviamente non si può fare perché i locali sono chiusi e perché c'è il distanziamento sociale, e quindi con le persone con cui la organizziamo ci siamo detti facciamolo come si sta facendo tutto, e cioè online. Facciamo dei collegamenti, ciascuno col proprio computer, ciascuno da casa propria, e io quando ho pensato alle 5-6 persone che raccontassero una storia, mi sono accorto che mi è venuto istantaneo pensare a persone che fossero grosso modo intorno a Milano, o a Milano o vicino a Milano. Perché così succede? Perché quando invito qualcuno a raccontare una storia deve stare vicino al locale in cui lo raccontiamo, che è sui Navigli di Milano, altrimenti sarebbe molto complicato, oppure che comunque si trova a Milano. Certo, non posso invitare una persona che sta a Roma perché dovrei pagargli il biglietto del treno, insomma è una cosa invece tutta free, tutta in amicizia, quindi quella cosa non si può fare. E mentre lo facevamo, mentre eravamo online con gli spettatori a casa che guardavano su Facebook e io che parlavo dalla mia poltrona a un tizio che si trovava in un altro quartiere di Milano sulla sua poltrona con un altro tizio che raccontava sempre da Milano o appena fuori Milano dalla sua stanza da letto, mi sono detto: questa cosa qua in realtà potremmo farla con uno che sta veramente a Roma, a New York o a Stoccolma, non cambierebbe nulla in questo caso. Questo credo sia l'effetto di quello che stiamo vivendo, cioè il fatto che lentamente il nostro modo di pensare deve abituarsi alla lontananza. Alla lontananza e anche in qualche modo al fatto che la lontananza può essere in realtà annullata grazie a alcuni mezzi di comunicazione, come ad esempio il web, come ad esempio i social network, eccetera, eccetera. Ma è un passaggio molto lento ed è un passaggio che credo abbia bisogno di essere vissuto. Noi, come al solito, raccontiamo storie, come facciamo tutti i giorni. Vi ringraziamo per farlo, vi ringraziamo per continuare ad ascoltarci in tantissimi, siamo molto molto felici. La storia di oggi parla di un rapporto di amicizia che è fatto di vicinanza, perché nasce come un rapporto di vicinanza, e i due protagonisti sono Federica e Mustafa. Questo è Linea d'Ombra, benvenuti. Ogni mattina prendevo il pullman da San Bonifacio e poi il treno da Verona. Scendevo a Vicenza e con un altro pullman raggiungevo la mia postazione davanti al supermercato, in una ridente cittadina della pedemontana. Partivo ogni mattina alle 5 per fare il ritorno alle 10 di sera al mio letto, un semplice materasso posato sul pavimento di un trilocale che condividevo con altri 5 connazionali. Eravamo tutti senegalesi. Io ero il più fortunato, perché avevo raggiunto l'Italia con un passaporto diplomatico e avevo occupato il posto di Rafi, un ragazzone cresciuto con me nella periferia di Dakar. Abitavamo in baracche di legno e lamiera in un piccolo villaggio a qualche decina di chilometri dalla periferia. Rafi aveva imparato in Italia a panificare e dopo l'esperienza davanti al supermercato era riuscito a farsi assumere a Verona in un forno. E quando aveva avuto il gruzzolo necessario, si era comprato un forno dismesso e si era imbarcato a Genova col suo carico prezioso, sognando un futuro da panettiere. E c'era anche riuscito. Io mi sono sposato giovane, ero già padre di 2 bambini, facevo fatica a tirare avanti la famiglia, ma avevo tanti sogni. Mio padre aveva denunciato la mia nascita con 5 anni di ritardo per tenermi con sé e insegnarmi le cose della vita. Da lui ho imparato che nulla è impossibile se si vuole migliorare la propria condizione e si è sani, laboriosi e onesti. Questi per me erano valori imprescindibili e anche nella nostra miseria non ci è mancato affetto e nemmeno il senso della famiglia. Credevo di dover vivere nella mia terra per sempre quando Rafi mi ventilò la possibilità di prendere il suo posto davanti al supermercato. Diceva che la gente era gentile e gli lasciava sempre le 500 lire del carrello. Aveva fatto un bel po' di soldi. Ne parlai con Fatou, la mia dolce moglie, dagli occhi di gazzella. Non fu un momento facile, ma decidemmo che sarei partito per vedere se c'erano possibilità per un futuro migliore in Italia. Fatou mi disse: «Mustafa, posso portare avanti la famiglia con il mio lavoro di cucitrice per 2 anni, non di più. Questo è il tempo che puoi prendere per capire se possiamo vivere bene in quel paese. Se no, torni a casa, oppure non troverai né me né i ragazzi». Era difficile all'inizio, ma per fortuna ho avuto gente per bene che hanno voluto non aiutarmi, ma inserirmi nel loro mondo. E quindi soltanto così, come uno come Federica, perché tutti erano gentili con me, ma lei ha fatto il primo passo. Fuori dal supermercato ogni giorno mi passavano davanti centinaia di persone e la mia facilità nel ricordare volti e nomi mi rendeva simpatico a tutti. Accompagnavo le signore fino alle loro auto. Avevo imparato a disporre con criterio la merce nel bagagliaio. Le tenevo protette con il mio ombrello in caso di pioggia. Mi lasciavano volentieri la moneta del carrello e a volte mi davano anche qualcosa di più. Lei, ogni volta, aveva qualche bambino da sistemare sul suo carrello o una figlioletta che conduceva da sola il proprio carrellino su cui metteva dolci e giochini. Mi salutava sempre e io conoscevo il nome dei suoi 4 figli e anche del bambino che aveva in affido. Parlavo un italiano stentato, mi aiutavo con il francese, la nostra lingua ufficiale dopo i dialetti dei nostri villaggi. Era uno dei primi ragazzi di colore o comunque stranieri che si vedevano fuori dal supermercato e che recuperavano i carrelli. Però a differenza di altri, Mustafà colpiva per la squisita educazione e per una memoria straordinaria per i visi, per i nomi. Quello che mi ha colpito sicuramente è stata la gentilezza innata che poi lui ha attribuito agli insegnamenti paterni. Sapevo che lei insegnava alla scuola media e un giorno che mi era sembrato meno indaffarata e meno di corsa, presi il coraggio di chiederle se mi scriveva su un foglio come potevo dire le azioni che avevo fatto o quelle che avrei fatto il giorno dopo. In una parola, volevo imparare i tempi dei verbi. Non volevo usare sempre l'infinito e ci tenevo a parlare con la gente in modo comprensibile. Federica capì subito di cosa avevo bisogno e mi sorrise, lasciandomi riportare a posto i due carrelli della spesa settimanale. J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits. نفس الشمس تشرق علي وعليك نفس النجم بعيوني بتضوي بعيني sem querer, faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver. La grande vie nous a plongé dans sa cohue. Dehors y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus. Voilà ce qu'on est venu demander, la beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté. Mustafà è davvero un bravo ragazzo. A volte sono talmente sommersa da alimenti, pannolini, bottiglie di latte che rischio di perdermi un figlio appena fuori dal supermercato, sempre che sia riuscita ad averli tutti e quattro alla cassa. Anzi, tutti e cinque, perché a volte c'è anche Danilo, il nostro amichetto speciale. Mustafà mi aiuta a sistemare la spesa pur se il mio bagagliaio è già ingombro di giocattoli, zaini della scuola, stecche da hockey, pattini e merende del secolo scorso. Ha un sorriso smagliante, il corpo slanciato, una memoria di ferro e un'intelligenza vivace. Mi piace incontrarlo con i suoi modi gentili, mi dà veramente una mano. È un uomo molto organizzato. Due settimane fa mi ha chiesto se gli coniugo i verbi essenziali nei vari tempi e nei vari modi. Gli ho preparato uno schema con i verbi tipo mangiare, dormire, andare, venire, leggere, pagare, chiamare. Nel giro degli ultimi 8 giorni ha talmente perfezionato le sue espressioni da farmi provare invidia per la capacità di apprendere la nostra lingua. Io ho studiato per anni lingue straniere all'università e ancora ho forti dubbi su declinazioni e coniugazioni. Oggi l'ho visto seduto su un paracarro vicino ai carrelli, intento a leggere un grosso libro. «Ciao Mustafà, cosa stai leggendo?» gli ho chiesto. «I promessi sposi», mi ha detto, «di Alessandro Manzoni». Lo ha detto con il suo solito sorriso abbaccinante. «Ma scherzi», gli ho chiesto, «chi te l'ha dato?» «L'ho comprato al mercato dei libri usati perché mi hanno detto che è una bella storia, che mi insegna tanto su di voi e migliora anche il mio italiano. È così secondo te?» Io sono rimasta senza parole. Sono ammirata e anche orgogliosa di averlo potuto aiutare seppure con 4 acche di comune grammatica. Allora, quando ho visto il promesso sposo, me l'ha offerta una mia amica che era anche lei professoressa all'Università di Padova. Allora ho cominciato a leggere e a capire bene l'italiano tramite il promesso sposo, tramite anche altri come dire, altri scrittori, altri libri, per poter inserirsi bene in una comunità devo saper capire, rispondere e capire quello che ti dicono. Per lui è stato un impegno importante imparare la lingua e mi aveva chiesto un aiuto per perfezionarla. E la cosa a cui ha tenuto di più è che i figli arrivassero qui già preparati. Questa è una qualità rara in chi arriva, no? Federica è diventata una delle mie migliori amiche. Lei e la sua famiglia ci sono stati per me in tante situazioni. Da quando si è passati dalle 500 lire all'euro nel carrello, io ho quadruplicato il mio guadagno e ho potuto mantenere Fatua Dakar mentre i miei due figli ad una scuola privata in Senegal, dove studiano anche la lingua italiana. Ho ottenuto il permesso di soggiorni in tempi brevi, ho trovato lavoro in due aziende, ho trovato anche casa. Federica è entrata nell'amministrazione della nostra città. Sì, proprio così, la nostra città, perché ora ne faccio parte anche io. Ha potuto aiutarmi anche da lì, sono diventato un mediatore culturale e linguistico e ho potuto aiutare tante persone straniere a dirimere questioni legali, sanitarie e familiari. Siamo andati insieme alla festa delle culture, lei ha mangiato couscous e io salsicce e polenta. Sono tornato in Senegal alla guida di un gruppo turistico e ho comprato la casa per la mia famiglia fino alla fine della scuola dei miei figli. Poi Fatou mi ha raggiunto in Italia e infine anche i nostri due ragazzi. La nostra vita è migliorata e con Federica manteniamo sempre i contatti. Nel mio portafoglio ho ancora ripiegato il suo foglietto con tutti i verbi per ciò che facevo ieri e ciò che farò in futuro. Quando ripenso a Mustafa, che da qualche tempo è tornato nel suo paese per occuparsi addirittura di un movimento politico di orgoglio e sviluppo senegalese, mentre la sua famiglia vive qui, nella nostra città, so che l'ho voluto fortemente presente al mio compleanno, alle feste di famiglia. Penso che era l'unico amico nero che raccoglieva le olive con noi, che cantava nel coro gospel avendone più diritto degli altri, che forse ha in memoria più nomi della nostra anagrafe che tutti i dipendenti dell'anagrafe stessa. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you Credo che sia così a naso la prima volta che ci arriva una storia doppia, cioè una storia che racconta due punti di vista, che ha, come dire, due soggetti narranti, ecco. È stata molto curiosa leggerla e siamo molto contenti di averla raccontata, perché appunto per una volta abbiamo due punti di vista reali, non semplicemente le riflessioni fatte da qualcuno su come viene visto il mondo da qualcun altro, ecco, no? Perché poi è una cosa che noi diciamo, io tendo a ripetere sempre che raccontare le storie è un modo per conoscere il mondo, ma è un modo per farlo attraverso gli occhi di chi racconta. In questo caso abbiamo esattamente due occhi, quello di Federica e quello di Mustafa, ma al telefono con noi ovviamente c'è Federica. Pronto? Ciao Federica, buongiorno. Ciao Matteo. Senti, come stai? Che in questo periodo, diciamo, la domanda non è casuale. Come stai? Bene? No, in questo periodo sto benissimo e mi auguro che tu stia bene. Sì, sì, sì. E no, poi non possiamo lamentarci di nient'altro se stiamo bene. No, mi sembra un'ottima suggestione. Senti, e Mustafa come sta? So che è in Senegal in questo momento. Sì, sì, è in Senegal da un anno e mezzo, quasi due anni, perché è molto impegnato su alcune iniziative che hanno anche una probabilmente un intento di formazione di un movimento politico. Ok. Senti, lui è sempre stato una persona molto intraprendente, però a prescindere da questo, giusto? Molto capace anche di autodisciplinarsi. Io ne ho conosciuti tanti di stranieri e tanti extracomunitari, però credo veramente che Mustafa abbia una marcia in più, nel senso che ha saputo integrarsi in un modo basato sull'educazione, sulla dolcezza, ma applicando su sé una grande, grande autodisciplina. Federica, voi vi siete conosciuti parecchi anni fa, 99-2000, giusto? Sì, parecchi anni. Quindi sì. L'incontro è avvenuto nel piazzale del supermercato? Eh sì, lui ha proprio, come ho descritto, ho preso il posto, come ha descritto lui più che altro, è il posto di un suo conterraneo, e che era diverso però da lui, conoscevo anche Rafiana, era diverso. E lui si è posto in un modo straordinario con le persone che afferivano a quel supermercato. Federica, come lo hai convinto a raccontare la sua versione della storia? Come gli hai detto, c'è un programma che racconta, oppure semplicemente è un esercizio così di scrittura che volevi fare e gli hai chiesto di partecipare? No, ci sentiamo su Messenger più che altro. Avevo ascoltato una tua trasmissione sul bianco e nero, mi è subito venuta in mente l'amicizia con Mustafa e gli ho proposto, la scriviamo insieme, quindi... tu fai la tua parte, l'ho un po' rivista dal punto di vista lessicale, però quella quello è il suo pensiero e ho integrato il mio, ma... Quindi ci starà la narrazione del nostro incontro, della nostra amicizia. Quindi ascolterà in podcast prima o poi Mustafa la puntata. Sì, okay. E soprattutto ascolta la sua famiglia. Come stanno loro? Loro stanno bene. Il fatto è veramente una persona squisita e ragazzi che sono arrivati parlando e capendo la lingua, capisci che è un vantaggio enorme questo. Certo. Dovremmo veramente aiutarli ad arrivare sapendo già esprimersi e anche capendo così si relaziona chiaramente, molto più in fretta. Un tema culturale. Sì. Federica, tu insegni, sei un insegnante, giusto? Ho insegnato. Però io ho insegnato tedesco veramente. Non era il francese la lingua con cui potevo comunicare. E lui mi ha chiesto le basi dell'italiano e soprattutto la grammatica, la sintassi. Voleva imparare a esprimersi bene con i verbi con una consecuzione temporium giusta e direi che sì, insomma, è stata proprio grande Mustafa. Sì. Senti Federica, vederlo leggere I Promessi Sposi che i nostri figli, noi stessi abbiamo un po' subito, per me è stato affascinante. Fa specie decisamente. Federica, prima di salutarti, tu hai quattro figli, giusto? Ricordo sì, bene sì. Lo dici, e poi dici, ogni tanto eravamo incendere un altro perché era un amichetto speciale, a cosa ti riferisci? Sì, è perché noi abbiamo avuto un bambino in affidamento per 8 anni che pensa proprio oggi compie gli anni, tra l'altro. Ah, auguri. E che è stata una bellissima esperienza. Quindi quanti anni ha adesso? Adesso ne ha 33. Oggi ne compie 33. È un uomo, e allora bene, allora salutiamo molto anche lui. Federica, grazie per la storia, per la chiacchierata, in bocca al lupo per tutto. Grazie, stai a te, al sicuro, Matteo. E grazie. A presto. Grazie ancora. Tantissimi auguri per tutto. Ciao. Ciao Federica. Chissà che finisca presto. prima o poi, grazie. Così lontani, così vicini, si intitola la puntata di oggi. Dopo la storia di amicizia tra Federica e Mustafà e dopo i racconti delle loro rispettive vite, ora continuiamo a raccontare. Prima però sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. La prossima storia è una storia che arriva dal Texas, dal Texas più profondo, quello che conosciamo attraverso i film di quelli che ancora oggi sono cowboy, cioè che lavorano con le mandrie, che lavorano con gli animali in questi spazi infiniti e sconfinati. È una storia però che è stata raccontata da un italiano, da un regista italiano, si chiama Roberto Minervini, che era là per fare un documentario. Lui la racconta così questa storia. All'inizio pensavo di fare un film sul crescere uomo maschio in Texas. Avevo scelto come protagonista un bambino di 7 anni che veniva da una famiglia rurale molto molto religiosa e che stava crescendo con una grande passione per i bull riding, cioè per i rodei coi tori. Stando però vicino a questo bambino, io mi sono accorto di quanto mi interessasse di più il mondo di Sara, sua sorella di 17 anni, che si prendeva cura di lui. Il passaggio, continua Minervini, è stato fluido, anche se per molte settimane i genitori hanno fatto da filtro tra me e lei. Devo ammettere però che anche i genitori hanno avuto il grande merito di essersi fidati di me. Si sono aperti e hanno lasciato che io e Sara interagissimo in modo molto intimo. È grazie a loro che ho fatto questo film. Ecco appunto, queste sono le parole con cui Roberto Minervini, che è un giovane regista e documentarista italiano, ha presentato il suo film che si chiama Stop the Pounding Heart, che letteralmente significa frena il tuo cuore in affanno. Parla di due giovani, parla di un amore che nasce e forse parla di un amore che in realtà non riesce a compiersi. In questa puntata che si intitola proprio Così lontani, così vicini, la seconda storia è la storia di Sara alle prese coi primi movimenti del suo cuore. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Le immagini si aprono sui fuochi d'artificio che illuminano la notte e una ragazza dai lunghi capelli biondi che guarda verso il cielo. L'immagine successiva è quella di un bimbo piccolo, un paio d'anni al massimo, che cavalca un'altalena e imbraccia una bandiera sudista. La ragazza gli dà un buffetto e poi va a ritirare le sue capre, le accarezza e le chiama per nome una a una. Quella ragazza è Sara Carson, figlia adolescente di una coppia di allevatori di capre nel Texas rurale. Dopo aver ricoverato le capre, averle nutrite e munte, insieme alla famiglia leggono la Bibbia prima della cena. Dopo cena controlla che il caglio abbia fatto la giusta reazione con il latte e mette le forme di formaggio a scolare. Le giornate di Sara trascorrono lente e molto simili l'una all'altra. In un ranch, poco distante, invece, vive Colby Trischel, è un suo coetaneo, lavora per un allevatore di tori. Colby, quando finisce di lavorare, passa il tempo con gli amici ad allenarsi per il rodeo su un toro meccanico e a sparare a bersagli improvvisati. Sono tutti molto bravi a sparare e ancora di più a cavalcare. Il suo migliore amico ha un tatuaggio che copre tutta la schiena con la scritta Texas Boy. La campagna in cui Colby e Sara vivono è una terra primordiale, dove le nuvole corrono veloci e da un momento all'altro si passa dal pieno sole a temporali fortissimi. Gli spazi sono a perdita d'occhio verdi di erba e foglie e marroni di fango e acqua torbida. Quando non lavora con le capre, Sara si occupa dei suoi fratelli più piccoli e un giorno accompagna il suo fratellino a provare il toro meccanico di Colby. Davanti a lei, davanti a Sara, Colby cavalca un giovane manzo con grande successo. Sara è la sua unica spettatrice. Colby insegna al fratello di Sara a cavalcare e lo invita a un rodeo. Sara non ha frequentato la scuola per non avere distrazioni e tentazioni e lei stessa insegna ai fratelli più piccoli a scrivere e a leggere. Colby intanto è pronto per affrontare un vero rodeo, mentre nell'arena si intona l'inno americano e la preghiera del cowboy, nel piazzale antistante Sara vende i formaggi, lo yogurt e il latte di capra che produce. Durante la fiera Sara si allontana dalla sua bancarella e si avvia al recinto dei tori. Per la prima volta lei e Colby sono soli. Lui non ha amici intorno e lei non ha fratellini da curare. Colby la invita a provare il toro meccanico e lei rifiuta. Lui le chiede come si mungono le capre e come si fa il formaggio. Accarezzano una cavalla con gli occhi bassi e poi Colby torna al rodeo e Sara al mercato. Cowboys ain't easy to love and they're harder to hold. They'd rather give you a song than diamonds or gold. Lone Star belt buckles and old faded Levi's, and each night begins a new day. If you don't understand him, he don't die young. He'll probably just ride away. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars or drive them old trucks. Let them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. 'Cause they never stay home and they're always alone. Someone they love. Cowboys like smoky old pool rooms and clear mountain mornings. Little warm puppies and children and girls of the night. Them that don't know him won't like him, and them that do sometimes won't know how to take him. He's just different, but his pride won't let him do things to make you think he's right. Mama, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Let them be doctors and lawyers and such. Nei giorni successivi, Sara torna alle sue solite mansioni, le capre, i fratellini, con un'attitudine meno abitudinaria. Cura le mammelle a una capra che ha un'infezione e impara a sparare con il fucile automatico del padre. Anche Colby ha un piccolo ma evidente cambiamento. Chiede all'amico tatuato di insegnargli il combattimento corpo a corpo e segue gli insegnamenti di un predicatore cattolico. Un giorno Colby si infortuna un gomito cavalcando un toro e proprio quel giorno Sara ha portato i fratellini a vederlo cavalcare. Sara gli chiede come sta e lui la invita di nuovo a cavalcare il toro meccanico, ma anche questa volta Sara rifiuta l'invito. La sera la madre commenta la lettura della Bibbia dicendo che noi siamo state create da Dio per aiutare gli uomini nelle difficoltà e probabilmente troviamo in questo la felicità più profonda. Colby, in un giorno di festa al ranch, conosce Tyler, una ragazza dai lunghi capelli biondi molto simile a Sara. Quel giorno al ranch i ragazzi e le ragazze si mischiano, si mangiano i gamberi di fiume, si beve birra, si parla ad alta voce, si ride e si scherza. Tyler osserva Colby cavalcare. A differenza di Sara, Tyler accetta di provare il toro meccanico. Sara, la settimana dopo, porta il fratellino di nuovo a cavalcare il toro meccanico. Colby è sempre gentile con lei, ma lei intuisce che qualcosa è cambiato. Da lontano vede Tyler che spazza la stalla. Sara lascia il fratellino con Colby e raggiunge da sola i cavalli. Li accarezza. Quella sera stessa ha una reazione sgarbata con le sorelle che fanno le civette. Si occupa dei fratellini con ancora maggiore abnegazione, ma guarda spesso fuori dalla finestra. Le sue dita continuano a torturare il risvolto della gonna di jeans e la sera, durante la lettura della Bibbia, sbarra gli occhi a fissare il vuoto. La madre cerca di consolarla attraverso l'unica fonte di consolazione che conosce, la preghiera. Chiede a Dio di placare il cuore in affanno di sua figlia. Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep. But sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you. When tears come down like falling rain, you'll toss around and call my name. You'll walk the floor the way I do. Your cheating heart will tell on you. È una storia davvero delicata e sottile, quella che è contenuta in questo documentario molto bello che si chiama appunto Stop the Pounding Heart, cioè Ferma il tuo cuore in affanno, di Roberto Minervini. È un documentario fatto di grandi silenzi, di grandi spazi e ovviamente di grande grande bellezza. Lo trovate, se lo cercate da qualche parte online, sicuramente trovate quantomeno delle immagini per capire chi sono i protagonisti di questa storia, Sara in particolar modo. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo con le vostre storie, con i vostri diari da questa quarantena. Linee d'ombra. Io credo che probabilmente i diari che ci state mandando, le pagine di diario che raccontano le vostre giornate, dovremmo raccoglierli. Io spero davvero che in futuro li si possa magari pubblicare, perché sono davvero una testimonianza di un momento che stiamo vivendo, che è di fatto un momento storico. Intanto li potete ritrovare, se avete voglia di ascoltarli in un unico blocco, andate sul nostro sito, sulla pagina di Linee d'Ombra, e trovate i 5 diari che vi raccontiamo ogni settimana in un unico blocco di circa 20 minuti, mezz'ora. Se avete voglia proprio di ascoltarveli, di farvi un binge listening di diari di quarantena di Linee d'Ombra in un'unica volta, li trovate online, li trovate in podcast. Insomma, continuate a mandarne, noi continuiamo a leggervi. E quello che vi raccontiamo oggi arriva da una giovane ricercatrice, si chiama Emanuela, che aveva scritto una sorta di preambolo al racconto, in cui diceva: ciao Matteo, ti mando qualche riga sulla mia nuova giornata tipo. Sono una ricercatrice precaria di un noto centro oncologico fuori Torino. In queste parole c'è probabilmente gran parte del problema di questo paese. Ricercatrice precaria, ricordatevi la parola precaria. Sono una ricercatrice precaria di un noto centro oncologico fuori Torino, mi scrive. Ci siamo sentiti qualche anno fa, ma mi aveva già mandato una storia tempo fa e me la ricordo. Grazie per quello che fate, eccetera eccetera, insieme alla squadra di Linee d'Ombra. Grazie a te, e io ringrazio tutta la squadra di Linee d'Ombra ogni volta. La radio ci tiene molta compagnia in queste giornate tremendamente solitarie, visto che il mio compagno non riesce a raggiungermi. Quindi Emanuela è una di quelle che appunto è separata dalla persona che ama, dalla persona che di solito ha vicino, perché evidentemente per motivi di quarantena e di distanza non possono avvicinarsi. Quindi stiamo con lei, è una giornata tipo di marzo, quindi le cose in realtà sono già molto cambiate, ma stiamo con lei e andiamo al lavoro in una giornata particolare con lei. Diario di una giornata in quarantena, Torino, 16 marzo 2020. L'area della ricerca dell'Istituto Oncologico è chiusa dalla scorsa settimana. Un solo ricercatore per gruppo può entrare, così non abbiamo dovuto buttare via mesi e mesi di esperimenti. Oggi tocca a me. Ho gli occhi ben aperti prima che suoni la sveglia. Fuori c'è un silenzio strano per un lunedì. In realtà sarebbe strano anche per una domenica. Mi alzo. Sembra quasi un giorno qualsiasi. Prima di uscire controllo di avere l'autocertificazione, il badge, ho tutto. Sto bene. Niente febbre, che se no, giustamente, non entro proprio in istituto. Macchine in giro ce ne sono poche, persone che camminano praticamente nessuna. Forse finalmente abbiamo capito. Il parcheggio è quasi vuoto, siamo noi ricercatori a riempirlo, ma oggi al massimo saremo una decina distribuiti su 3 piani enormi. Difficilmente ci incontreremo. All'ingresso mostro il badge, mi misurano la febbre, 35,8, a posto. Il laboratorio vuoto mi mette tristezza, è surreale, sembra quasi un sogno strano. Togliendomi la giacca guardo fuori dalla finestra, i parenti dei pazienti sono in attesa in cortile perché dalla scorsa settimana, tranne casi gravi, nessun accompagnatore può entrare. Sono ben distanziati tra loro, tutti con le mascherine sul viso. Un'immagine mai vista prima, che resterà per me il simbolo di questi giorni complicati. Finisco quello che ho da fare concentrata, saluto da lontano un paio di colleghi e vado a ritirare la spesa, meglio ottimizzare le uscite di questi tempi. Poi dritta a casa. Il resto della giornata starò al PC a studiare. Poi verso le 6, come se fosse una giornata normale, vado in palestra, in salotto. Senza attrezzi, solo con un paio di pesi comprati nel weekend online. Ma se non mi invento qualcosa, 3 settimane a casa non le reggo proprio. Stiamo facendo tutto quel che serve, perché così, speriamo, andrà tutto bene. I was walking far from home, where the names were not burned along the wall. Saw a building high as heaven, but the door was so small, door was so small. I saw rain clouds, little babies, and a bridge that had tumbled to the ground. I saw sinners making music, and I've dreamt of that sound. I was walking far from home, but I carried your letters all the while. I saw lovers in a window, whisper, warn me like time, warn me like time. I saw sickness blooming fruit trees. I saw blood and a bit of it was mine. I saw children in a river, but their lips were still dry, lips were still dry. I was walking far from home, and I found your face mingled in the crowd. Saw a boat full of believers sail off talking too loud, talking too loud. I saw sunlight on the water, saw a bird fall like a hammer from the sky. An old woman on a speed train, she was closing her eyes, closing her eyes. I saw flowers on a hillside and a millionaire pissing on the lawn. Saw a prisoner take a pistol and say, join me in song, join me in song. Saw a car crash in the country, where the prayers run like weeds along the road. I saw strangers stealing kisses, giving only their clothes, only their clothes. Saw a white dog chase its tail, and a pair of hearts carved into a stone. I saw kindness and an angel crying, take me back home, take me back home. Saw a highway. Torniamo ad Anna Maria. Anna Maria ormai è diventata una compagnia nelle nostre giornate, sicuramente nelle nostre puntate. E siamo arrivati al cuore pulsante, cioè siamo arrivati al punto della storia in cui il racconto si avvicina molto alla quotidianità, cioè da quello che siamo partiti a raccontare anni e anni fa, adesso siamo molto vicini alla vita quotidiana di Anna Maria, perché Anna Maria in questo episodio della storia seriale ci racconta come si avvicina a una cucina di un ristorante. Era un ristorante con una quarantina di coperti che faceva servizio sia a pranzo sia a cena. Lo chef aveva lavorato molto nelle cucine in Nord Europa e negli Stati Uniti, si era contaminato molto. E a questo punto ho chiesto ad un amico che aveva un ristorante in centro, gli ho detto mi vuoi? Nel senso, gli ho detto io sì, so cucinare, ma so cucinare per me, non so cucinare per... E ho detto sì, perfetto, quindi abbiamo fatto addirittura una sorta di contratto, sai, quelli tipo da stagista, nel vero senso della parola, quindi con tutte le cose messe in regola. Io sono arrivata con la mia giacca, perché avevo già la giacca, con i miei coltelli, perché i coltelli mi sono sempre piaciuti tantissimo, quindi le lame mi hanno sempre affascinato molto. E i primi due mesi patate e cipolle, cipolle e patate, come se non ci fossero domani, cioè proprio la fatica, il caldo, le scottature, lo stress del servizio, le parolacce, tutto quello che doveva esserci. Facevamo un menù locale, padovano, molto buono, appena modernizzato. Ma soprattutto avevo un approccio in cui io mi sono riconosciuta subito. Oltre ad essere un bravo cuoco, era un musicista, gli piaceva approfondire le cose, era molto colto, poco convenzionale. Una dialettica forbita nei momenti di stress. Immaginati come può essere forbito un veneto nel momento di stress. Abbiamo questa. Però mi ha insegnato tantissimo e mi ha dato tutto quel... E mi ha, come dire, è come se mi avesse tagliato il cordone ombelicale. Ci sono stata quasi un anno in quella cucina. Ci andavo in bicicletta tutte le mattine. Partivo da casa e andavo in centro in bici, anche se sono parecchi chilometri. E io mi sentivo una cosa incredibile ogni giorno che passava. Io arrivavo, avevo le chiavi, aprivo, parcheggiavo la bici e cominciavo ad impastare il pane, mettevo su il pane. Accendevo i fuochi per riscaldare la cucina, perché non c'è riscaldamento in cucina, e soffri tanto il freddo quanto il caldo. E vedevo le cose che si trasformavano con la scienza, la sapienza e la tecnica nelle mie mani, ed era una cosa bellissima. Le uova e la farina che diventavano ravioli, e dopo tu uscivi e ti chiamavano dalla sala per farti complimenti per quel raviolo. Io avevo messo e continuo a fare in ogni singola cosa una parte di me. Lo faccio per mettere in un certo qual modo le gambe a tutta quella me che per 40 anni è stata costretta, legata e soffocata. Ma quando scrivo un racconto di cucina, quando scrivo una ricetta, quando passo le notti a studiare, quando offro qualcosa a qualcuno preparato da me, è come se mi mescolassi con gli altri e continuassi a correre per il mondo. La cucina per me è diventato questo. È diventato non... cioè il cibo più che la cucina, perché è il cibo che fa questo. Il cibo che avevo scelto come arma per farmi fuori con la negazione è diventato uno strumento per... essere, se mi consenti un po', ovunque. Stiamo davvero scoprendo non solo come cucina, non solo la storia del cibo e come cucina Anna Maria, ma davvero che persona è Anna Maria, grazie al suo racconto e grazie al modo in cui ci comunica il suo rapporto con il cibo, il suo rapporto più con la trasformazione che con il cibo. È molto interessante quello che dice, che è una cosa che chiaramente viene, no, con la cucina, ma è una riflessione a cui io perlomeno personalmente che non faccio spesso, come le cose si trasformino, la farina, le uova, l'acqua, il latte diventino altro e poi diventino cibo. Grazie ad Anna Maria per la sua storia, grazie a Mauro Pecio che la raccoglie puntualmente per restituircela e per raccontarcela. Grazie ad Anita Panizza, grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche, grazie a Paolo Corleoni che monta tutto quanto insieme. Voi continuate ad ascoltarci, continuate a mandarci le vostre storie, linee d'ombra@radio24.it. Ora ascoltiamo il GR e noi torniamo domani puntualissimi a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!